Cruciani, sì, dimmi. Sono qui a fianco al dottor Romiti. Sì, oh, dottor Romiti. E vediamo, aspetta. Eccoci. Io sono una Me lo fa salutare un secondo, dottor Romiti, a Radio 24? E poi lo faccio autografare? Il libro di Tognoli. Sta autografando un libro, dottor Romiti. Allora, quando noi lasciamo il microfono aperto. Quando ci sei, ce lo... Quando sei con Romiti, eccolo qua, te lo posso passare. Grazie, grazie. Dottor Romiti a Radio 24 alla Zanzara in esclusiva, a te Cruciani. Dottor Romiti, buonasera, come sta? Bene, bene, tutto bene. Ha passato una buona serata al Teatro Parenti? Sì, abbiamo fatto un po' di polemiche, sì, va bene. Bella. E iniziamo subito qua anche con le polemiche, le faccio due o tre domande. Marchionne ha detto che senza l'Italia... No, io lo interrompo. Come le interrompo? Faccio tutte le domande che vuole, ma non sulla Fiat. Ma come non sulla Fiat? Allora che domande le faccio? No, quello che vuole, c'è scibile umana, ma non sulla Fiat. Ma come non sulla Fiat? No. Una domandina, no, una sola. Ci vuole il buon gusto di capire che quando si è passati la mano ad altri e altri con... Ma guardi che lei sulla Fiat ha parlato recentemente. Ma che... anche un'opinione è un'interferenza. No, ho capito, ma anche lei recentemente sulla Fiat ha parlato, non è che non ha parlato, mi scusi. No, ho detto semplicemente, quando è venuta fuori da Marchionne che la sua gestione aveva portato la Fiat anche in Brasile, ho detto questo proprio no, perché in Brasile ci siamo andati all'epoca mia siamo andati negli anni 70-75. Sì, però mi risulta, lei per esempio in una lunghissima intervista al Corriere della Sera ha parlato proprio della Fiat, sui sindacati, sulla divisione... Ho detto semplicemente che questa è una mia opinione. No, ma lei può anche scegliere di non parlare qui della Fiat, ma non è che... Non conviene dividere i sindacati, è sempre un errore per le aziende, per la stessa Confindustria, il governo, fanno un errore a dividere, bisogna cercare di tenerli uniti. Sì. E da questo punto di vista Marchionne sta sbagliando? Questa è una domanda tranello, io non le rispondo. Però mi scusi un attimo, dottor Romiti. Lei dice non ha voglia di parlare della Fiat stasera, perché in generale della Fiat parla, non è che non parla. No, non è vero. Non è vero? Io leggo qua due o tre interviste, una fatta al Corriere della Sera, appunto tutta sulla Fiat, 28 agosto. No, me le porti. Ma sto qui, a un'intervista ad Aldo Cazzullo, un'intervista ad Aldo Cazzullo del 28 agosto. Ma non è che parlavo della Fiat. Sono 10 domande solo sulla Fiat. Non incidono che tanto non ha risposto. Sono 10 domande. Allora, lei questa sera non vuole rispondere sulla Fiat, no? No. No, scusi, però il problema che ha posto Marchionne riguarda l'Italia, perché quando Marchionne dice insomma senza l'Italia la Fiat andrebbe meglio, farebbe meglio, pone un problema che va al di là della questione della Fiat. Ora, questa frase le è piaciuta o no? Questo voglio sapere. No, e basta, abbiamo finito con la Fiat. Cioè, della nebbia di Milano. Le ripasso il problema. Va bene, grazie. Sei una sola, Parenzo, sei una sola tremenda. Ma che sai, dottor Romiti? Ho capito, ma non l'hai preavvisato. Insomma, intanto abbiamo fatto un'esclusiva meravigliosa, perché voglio dire, avere un... Ma qual è esclusiva? Non ha detto niente, che esclusiva? Adesso non ha detto niente, ha fatto le dichiarazioni private, adesso io sulla Fiat non rispondo, no? Ho capito, esclusiva, io ho già le agenzie. Romiti, 2 punti, aperte virgolette, sulla Fiat non rispondo, 3 croci ansa, lo vedo già.